buttare via quello che sono per te. Facile buttare via quello che sono per te. Facile buttare via quello che sono per te. Facile buttare via quello che sono per te. Particolari dimenticati, vestiti nuovi, pensieri usati, vestiti nuovi, pensieri usati, senza chiedere, senza chiedere. Lontano ormai da tutto, lontano ormai da tutto. Lontano ormai da tutto, lontano ormai da tutto, lontano ormai da tutto, lontano ormai da tutto. Facile buttare via quello che sono per te. Facile buttare via quello che sono per te. Vestiti nuovi, pensieri usati. Vestiti nuovi, pensieri usati. Facile buttare via. Facile buttare via. Facile buttare via. Facile buttare via quello che sono per te. Quello che sono per te. Quello che sono per te. Quello che sono per te. Colpiscimi. Colpiscimi. Colpiscimi. Colpiscimi. Come se fare tu. Come se fare tu. Senza voltarsi e senza chiedere. Senza voltarsi e senza chiedere. Underground. Cerco un po' di te.